C'è un uomo famoso per le strade di Roma, tra le scritte a colori e il freddo che fa, sotto le tette di mamma con la guerra lontana. È bello da matti, appena un po' scapestrato, è veramente un buon uomo, magari pure cristiano. Le donne non le ami o non le sai amare, e quante volte preferiva star seduto a guardare. C'è un uomo famoso per le strade di Roma, tra le scritte a colori e il freddo che fa. Sui binari del tram raccolgono le foglie. È troppo presto adesso per fare colazione. Marcello, dove corri? Ma non ti fermi a mangiare. Marcello, dove corri? Dove credi di andare? Poi a morire se n'è andato a Parigi, e l'Italia si inchina e i francesi lo adorano. Lo rivedo per strada e lo rivedo allo specchio, lo rivedo in mio padre e mi ci vedo da vecchio. A fare un poeta non basta un poco d'assenzio, agli eredi in fila direi di fare silenzio. C'è un uomo famoso per le strade di Roma, tra le scritte e colori e che freddo che fa. Sui binari del tram raccolgono le foglie. Troppo presto adesso per fare colazione. Marcello, dove corri? Dove credi di andare? Marcello, dove corri? Non ti fermi a mangiare.